Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Nella puntata precedente. Presto! L'imbuto non si può riempire. Azzolina! Donato! Donato! La scatola di plexiglass dove incatolare i ragazzi a scuola come dei cetrioli sott'aceto! Ecco l'ultima geniale trovata, la scatola a scuola di cui si è discusso questa settimana! È un'idea geniale uscita dal ministero, poi su tutto il resto non si capisce una mazza di niente, ma non è mica solo la scuola. Azzo, azzo, azzolina! Azzolina! Azzo, azzo, azzolina! Azzolina! Cosa? Azzolina! Quando? Parli lentamente e scandisca. Nel microfono. Allora, se lei è pronto, allo scoccare delle 9 si accenderà la luce rossa e saremo in diretta con la nazione. Non vedo la lucetta rossa. 9 in punto, luce rossa. Lei parla. Sì? La lucetta rossa non si accende, come mai? E 4, 3, 2... 1. Chi è? Come mai non telefonare? Signori, lo scenario è questo. Il conduttore è un ignorante zotico. Sì. Un qualunquista pressapochista, amante del trash e del fetish. Sì. La valletta avrebbe più sale in zucca, ma è davvero bruttina e antipatica. Non c'è da stare allegri. Per giunta la Confindustria manda in onda questo santuario della volgarità per fare soldi con la pubblicità. E poi paga sempre Pantalone. Signori, è il momento delle decisioni coraggiose. Chiudiamo o no questa discarica a cielo aperto? Andiamo pure. Perché mi avete rotto il cazzo? Letteralmente rotto il cazzo! Ma vai a fanculo a casa popolare, a te e tua sorella a casa popolare, che cazzo mi ne fotta a me a casa popolare? Da questo canale! Io potevo essere stipendiata! È incredibile quello che accade in questo paese. Noi ve lo raccontiamo, caro Parezzo, noi ve lo raccontiamo. Soprattutto il brutto, la pancia, quello che esce fuori dalle viscere. Non il ragionamento, non gli stati generali, non il l'inutile rapporto Colao. Non vi raccontiamo queste cose perché sono inutili. Quelle le lasciamo a In Onda con David Parenzo, con le discussioni filosofiche, con il loro 4%, 3% a fare le cose tic e toc, tic e tic e tic e tac sugli share. Non ce ne frega un cazzo, noi sentiamo le persone in carne e ossa, non facciamo discussioni sulla Lagarde, non facciamo discussioni su quello, su quell'altro. sugli stati generali, su chi hanno convocato, sul politico che ha detto questo, il politico. No, la gente in carne e ossa viva, la carne viva di questo paese, non le puttanate che raccontate voi nei vostri salotti, nei tuoi salotti, con ascensorino interno. Via Monterosa 91 20 149 Milano. Intanto eccoci qui ancora sul pezzo. Nonostante Parenzo continui a dire, oggi mi ha detto una cosa incredibile, qui rivelo tutto oggi, dico tutto fino in fondo. Mi ha detto che lui personalmente non verrebbe in Lombardia se può evitare di venire in Lombardia. Ragazzi, sentitelo questo qua, ha abitato a Milano per una vita, deve ringraziare, inginocchiarsi di fronte a Milano, dovrebbe inginocchiarsi di fronte a Palazzo Marino, inginocchiarsi di fronte alla Regione Lombardia, inginocchiarsi di fronte alla Madonnina, questa città, omaggiarla, dire grazie di avermi ospitato, di avermi fatto crescere, di avermi fatto fare una trasmissione. Dovrebbe dire grazie a, non all'istituzione, a questa regione. E invece cosa mi ha detto prima, mentre stavamo discutendo della trasmissione, mentre stavamo registrando qualcosa? Ah, fosse per me io non verrei in Lombardia, siete infetti. Ma vaffanculo, te lo dico con grande forza, con grande determinazione, con tutto l'affetto che ho. Vai a fare in culo, fai parte di quelli che dicono, vedono là i contagi in Lombardia che non contano più un cazzo, no? Non ci sono ospedali, io non vengo in Lombardia. Ragazzi, ho chiuso qua, con questa filippica di oggi. Beh, ho chiuso qua, in collegamento da Padova, forse dall'ascensore, fai su e giù, prende la linea su e giù dall'ascensore interno della sua casa, David Parenzo, buonasera. Buonasera, buonasera cari amici. Allora, amici, allora hai capito? Avete capito una cosa? Cosa abbiamo capito? La trasmissione, cosa abbiamo capito? È interamente registrata. Che non si sente la trasmissione è registrata. Abbiamo capito. Questo che non si sente capito. Un cazzo. Togli il cavetto. La trasmissione è registrata. Sì. Registrata. Registrata. Sì, ma vaffanculo, va. Ragazzi, Crisanti mi dà ragione, eh? Crisanti mi dà ragione. L'ottimo Crisanti mi dà ragione. L'OMS un baraccone. L'OMS un baraccone. Un baraccone. L'organizzazione sanitaria è un baraccone che va smontato e rifatto da capo, perché finanziato in gran parte da industrie private e da pochi stati, e dovrebbe invece fare gli interessi di tutta la comunità mondiale. Cioè, se lo dico io che va smontato, se lo dico io, Giù la Clare è un crimine. Regole. Quell'altro è dice che è un baraccone. Ha detto che è un baraccone, l'ottimo virologo Crisanti. Un baraccone. Ma non è che va sei abolito. Sei una vergogna. No, possiamo dirlo, però, sei una vergogna. Perché hai detto io non metto piede in Lombardia. Adesso avviso le autorità. Che in questo periodo avrei aperto con grande cautela. E quindi la regione che ancora ha il più alto numero di infetti. Ma quali infetti? Ma non è l'infetti, non è Cassandra Crossing, non dire cazzate. Avrei aperto tutto il resto, ma avrei ancora per un po' lasciato chiusa la Lombardia. Ma sei peggio di Brusaferro, sei peggio di Ricciardi. Avrei lasciato, sei il capo di Brusaferro, sei lo scherano di Brusaferro, di Locatelli, di Burioni. Mi auguro che tra una settimana vivremo tutti felici e contenti e i contagi continuino a diminuire. Questo me lo auguro per tutti noi, per tutto il paese. Non hai capito nulla, quali contagi? Per tutti noi. Vabbè. Vergognati, vergognati. Intanto, ragazzi, mi sembra che la protesta negli Stati Uniti stia un po' sfuggendo di mano, eh? Negli Stati Uniti statue di Colombo abbattute e vandalizzate. Questo non lo dici però quando esalti le tue manifestazioni. Sono dei vandali, statue di Colombo abbattute e vandalizzate. Ma per me chi vandalizza, per chi vandalizza una statua, altra è un follia, cretino totale. Altra follia. Una casa di Colombo produzione. Anzi. Fermo, Colombo, una casa perdone, di produzione che si chiama HBO, come molti di voi sanno. HBO. Come cazzo è, non mi interessa. Ha deciso di cancellare dal proprio catalogo. Ha prodotto degli d'accordo. Ha deciso di cancellare dal proprio catalogo un capolavoro come Via col vento. Io dico, ragazzi, andate a fare in culo anche qui, ci avete rotti i coglioni. Il produttore dice che ma non andrebbe contestualizzato nulla, mandatelo in onda a reti unificate. Dovrebbero mandarlo in onda a reti unificate stasera. Che è un no, film fatto non c'è niente 1939, da spiegare, ma grazie al cazzo, se non ricordo non male. Più pure Via e col quindi vento, nel 39 c'erano quegli stereotipi là, purtroppo. Anzi, quel film rispecchia la società ma dell'epoca. Ma non bisogna spiegare nulla. Quindi va mandato in onda. Spiegando che il film è del 1939. Ma lo sa la gente, c'è scritto 1939, c'è scritto, c'è sempre stato scritto. Quindi contestualizzandolo è un documento storico importantissimo, quindi non è da cancellare manco per niente. Io vado ai matti, ragazzi, vado ai matti. In Italia qualcuno vuole cancellare Montanelli, le statue di Montanelli, per episodi, come sapete, che si riferiscono alla Seconda Guerra Mondiale. No, sì. Alcune associazioni di Milano, insieme ad alcuni consiglieri del PD a Milano, vorrebbero togliere i giardini intitolati a Montanelli e la statua di Montanelli, Indro Montanelli, un gigante rispetto a questi cialtroni, un gigante. Non ho mai sentito nessuno del PD dire che va abbattuta la statua di Montanelli. Ma mai no, sentito battuta picconate, no. Mai sentito nessuno. Vedrai. E chi è del PD? Ma non lo so, PD ha detto una strozzata. Personaggi minori. Se uno l'ha detto, è una strozzata. Intanto le sardine avevano annunciato il silenzio, invece tornano, non ce la fanno a resistere al piccolo schermo. Non riescono a resistere all'attrazione della televisione, dell'entertainment. Non riesco, perché di quello si tratta, è una baracconata, è tutto un teatro dell'assurdo. Anche le trasmissioni che pretendono di essere più serie ospitano le sentinelle, no, le sentinelle queste sono altre, ospitano le sardine. Per far dire a Santori sono migliore di Salvini a livello umano. Signor Santori, Santuzzo Santori, senti, stavolta l'ho detto giusto. Sono migliore di Salvini, ma vai. Sono migliore di Salvini a livello umano. Queste sono le sardine. Avevano detto che volevano scomparire, non ce l'hanno fatta. L'attrazione del piccolo schermo, chiama Floris. Sì, Floris, vengo. Certo, figurati, vengo. Ma non avevi detto che non parlavi più. Sì, però, sai, ci ho ripensato. Qui la situazione è grave. La destra potrebbe ritornare al potere. I consensi della Meloni stanno salendo. Bisogna. Dai, ma è patetico, è ridicolo, è tutto ridicolo. Senti, ha esagerato a insultare la persona di Salvini invece delle sue politiche. Beh, Tamarro, gli insulti che ho ricevuto io in questi mesi, Tamarro in confronto a Confresca non penso che sia un insulto. E quindi si può migliorare, diciamo. Ma credo che lui, Salvini alla mia età comunque andava in giro con la maglia antiterroni a Pontida. Scusa, quindi non bisogna essere migliori dei propri avversari. Infatti io credo di essere migliore di Salvini a livello umano. Migliore di Salvini a livello umano, ragazzi. Ma non so più che dire. Ma non so più che dire. Ma non so più che dire. Un'altra che si chiama Jasmine Cristallo. È vero che girava con la. Ma sì, tutto vero. E dice: io sono ontologicamente di sinistra. Ma che cazzo vuol dire? Devi parlare al popolo. Non sei ontologicamente di sinistra, che non vuol dire un cazzo. Ma che super cazzo l'è? Sono ontologicamente. Io vado ai matti, ragazzi. Vado al manicomio oggi. Oggi sono pazzo. Ma non è una parola difficile. Oggi però mi devi fermare. Oggi mi devi fermare. Oggi mi devi bloccare perché vado ai matti. Ma sai che una volta vado il merito della matti sinistra era quello di insegnare anche al popolo delle parole complesse? Questo era il merito della sinistra. La sinistra insegnava a leggere e scrivere. Il Partito Comunista nelle campagne del Sud insegnava a leggere e scrivere. Il Partito Comunista Italiano in Sicilia, vai a chiederlo al grande Emanuele Macaluso che cosa facevano in Sicilia mentre tu non eri neppure uno spermatozoo prepolitico. Io sono di sinistra, lo sono dal punto di vista ontologico, nel senso che per me è un'istanza dell'essere, non l'ho detto tante volte, lo ripeto, non è una condizione che ha a che fare non con trattabile, una assolutamente non trattabile. No. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Quindi anche Via Col Vento, che ha cresciuto generazioni, contiene cose razziste ed è stato rimosso dal catalogo HBO, capito? Andate a fare in culo. Meno male che viviamo in un mondo democratico, meno male. Razzisti di merda, siete veramente dei fascisti. Siete dei fascisti. Ascolta, Cruciani, lo scherzo è bello quando dura poco. Te la fai finita di dire che non sai se ricomincerai a settembre? Ascolta, facciamo un patto. Tu non ricominciare la Zanzara e io vengo e ti stramazzo di mazzate. Facciamo questo patto, va bene? Parenzo, pure te non dici mai niente? Ehi, ma siete vivi? O no? State aggressivi? Intanto, ragazzi, ragazzi, Mario Giordano al suo top assoluto, all'apice del trionfo. Mario Giordano mi ricorda quei bambini che giocano lungo le spiagge con il secchiello e la paletta e poi corrono verso la mamma, sai, dal bagnasciuga verso l'ombrellone, con in mano il secchiello e la paletta, dicendo: mamma, mamma, Donato, Donato, guarda cosa ho fatto, guarda cosa ho fatto, Donato, Donato. Gli stati generali, Donato! Ecco, gli stati generali, una settimana che tutti parlano, non si sanno che cos'è, ma tutti parlano degli stati generali. Sua maestà Luigi Conte XVI, re Conte, e Maria Antonietta Rocco Casalino. È un genio assoluto. Senti. Maria Antonietta, a quelli che gli dicevano: maestà, maestà, il popolo non ha pane, lei rispondeva, come rispondeva? E se non ha pane, dategli la brioche, dategli la brioche, ecco qua, il nuovo brioche è il bonus bicicletta. Ma non era il bonus per il monopattino, pure per la bicicletta c'è il bonus. Ma poi perché lo ripete Godius? Basta una volta dirlo, perché lo ripete 3-4 volte? Beh, certo, quello è l'elemento di scena. Ragazzi, è grande teatro, ma la gente scusa, ha capito, Carlo, ma la gente è grande teatro, lo sai benissimo, no? È vero che bisogna andare oltre. Ho capito che bisogna fare. Che dovrebbe fare Giordano per andare oltre? Dai, su, che dovrebbe fare? Dai, dovrebbe fare qualche cosa. Con i giocattolini nello studio, dai, i giocattoli nello studio va bene una volta, non va bene. Ho capito, bene, ma che dovrebbe fare? Che dovrebbe fare? Impiccare la Azzolina, portare il ministro dell'istruzione là e decapitarla come ai tempi di Luigi XVI? Ma cosa dovrebbe fare? La metafora naturalmente è quella della rivoluzione francese, naturalmente. E allora si vada di conseguenza, naturalmente. Ci vuole una grande ghigliottina in studio, naturalmente. Ci vuole le tricoteuse, che erano queste signore che facevano la maglia e assistevano naturalmente al taglio della testa. E qualcuno deve essere decapitato. Ma ho capito, ma non è che il pubblico da casa deve decidere, naturalmente. Ho capito, ma non è votare sì, no, morte o sopravvivenza. E questo si fa, il resto è noioso. Anche perché in quel modo si crea tutta la tensione della trasmissione. Morirà o non morirà, naturalmente. 2 ore di grande spettacolo, andiamo al 22%, naturalmente. Così facciamo semplicemente il 7, che va molto bene, naturalmente, ma molto basso, limitante. Perché si sa che in diretta non morirà nessuno. E quindi è scontato, naturalmente. Ho capito, però uno non è che può ammazzare qualcuno con la ghigliottina. Perché la gente non muore, naturalmente, oggi? Naturalmente. Tu dici prendere qualche ergastolano, qualcuno, dici pagare qualcuno alla famiglia per farlo morire, diciamo così. Naturalmente, diciamo. Si potrebbe chiamare qualche disperato, naturalmente, per fare un grande show. Tutta la famiglia ne avrebbe dei vantaggi enormi, naturalmente. Ho capito, enormi. Però è una cosa di l'ha proposta la RAI questo format. Ma è un po' naturalmente, è un po' come quando naturalmente qualcuno, leggiamo le cronache sui giornali di persone che vendono il rene per povertà, ricorderemo, no? Naturalmente. Come no, certo. Accade purtroppo, è un dramma, ma lo devi documentare naturalmente, ma è un dramma. Ma se non lo documenti fai solo la radio, la radio, lo devi vedere, la differenza che c'è tra la televisione e quella chiacchiera di questi due imbecilli della Zanzara che chiacchierano e non si vede niente. Tu dici, a questo le punto, immagini, sì, la potenza delle immagini. La decapitazione di un disgraziato, di un poveraccio a vantaggio della famiglia. La famiglia avrebbe dei grandi vantaggi. Primo, notorietà. Secondo, un'assicurazione, soldi, sì, che naturalmente che si può fare un cachet, si può fissare naturalmente un prezzario della morte, naturalmente si può dire. È un'idea terribile questa. Gli taglia un dito, naturalmente può valere 30.000. Non hanno voluto, perché loro sono ancora fissati con Don Matteo, con quel prete, il prete con la bicicletta. Ma quali sono i preti che vanno in bicicletta? Col BMW vanno, col Mercedes. Dai, quale bicicletta? Il Papa va in bicicletta forse, dai, ipocriti, Don Matteo, dai. Intanto Feltri dice che i migranti non hanno una casa e fanno la pipì nella Iole. Cosa ha detto? Veramente a pipì. L'ultimo che si è visto che ha fatto la pipì a Palazzo Chigi era un signore. Ma chi è? Un italiano era? Che cazzate di? Un commerciante, un negoziante un italiano neofascista. Che cosa dice? Ma gli immigrati. Ma perché dice? Perché non gli dici che sta andando via di testa? Aspetta, perché aspetta. Non lo aiuti? abbandonarli nelle strade di Milano o di altre città, dove poi questi poveracci non sanno dove trascorrere la notte, sono costretti a fare la pipì nelle aiuole, e poi la gente si arrabbia perché fanno la pipì nelle aiuole. Ma se non hanno una casa, dove volete che la facciano la pipì? Tra l'altro fa anche ridere che noi abbiamo chiuso le regioni, abbiamo chiuso i confini, eccetera, a tutti, tranne che agli immigrati, allora siamo anche deficienti. E andiamo ad Alessandro, provincia di Pisa, vai Alessandro, vai. Giuseppe, vai ciao Alessandro. Giuseppe, ciao, buonasera, sì. Ciao. Vai, veloce, su. Io chiamo per fare un intervento per quanto riguarda il gesto dell'inginocchiamento del nostro... Guarda, io sono avvelenato con l'inginocchiamento, io non mi inginocchio di fronte a nulla, anzi, mi inginocchio solo per pratiche sessuali, posso dirti una cosa, l'unico inginocchiamento possibile sono pratiche sessuali. Per l'uomo, è bizzarro inginocchiarsi per pratiche sessuali, però l'unico inginocchiamento mio che ricordo è per pratiche sessuali. Si può fare anche... Farebbero bene parlarlo anche i nostri parlamentari. Cioè, allora, immaginate una persona seduta, che ne so, messa su un tavolo o sul bordo di un che ne so, di un bagno, e l'uomo inginocchiato che pratica cunnilingus. Questo è l'unico inginocchiamento che io ricordo, che posso tollerare, non il resto, non queste buffonate. Comunque vai Alessandro, puoi dire tranquillo. Anch'io Giuseppe sono perfettamente d'accordo con te. Allora? Perché volevo soltanto far presente a quei grandissimi pezzi di merda di chi? I nostri parlamentari che non si sono inginocchiati quando è cascato il ponte di Genova per le nostre vittime, non si sono inginocchiati, non hanno fatto un cazzo. Beh, non hanno fatto un cazzo, questo non lo so. Stai parlando innanzitutto col viva voce e con l'auricolare, in primis, sicuro, auricolare o viva voce stai parlando? Questo ti boccia certo. Assolutamente, giusto che stai parlando con l'auricolare e col viva voce o sbaglio? No, sbagli. No, non sbaglio perché sento chiaramente una voce strana, sento una voce lontana, sicuramente sei con l'auricolare. In ogni caso non è questione di parlamentari. Tu potresti avere ragione perché hai detto non si sono inginocchiati di fronte alle vittime, invece si inginocchiano per una vittima che sta di Minneapolis. Fermi tu. Minneapolis. Fermi tu. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. La Zanzara. So che abbiamo tante telefonate. La Zanzara non può chiudere, non può. La Zanzara. Sono deluso e sto piangendo. Vieni. No. E sto piangendo. So che abbiamo tante telefonate. Cosa? Eccolo! Siete riusciti a contagiare anche mia madre, che tutto il giorno ripete la mia commercialista Pina Pitone. Ma basta! Beppe, altro che il piano Colao! Domenico Bini, il maestro, ha raggiunto 100.000 iscritti su YouTube ed è stato premiato. Ma queste notizie non le date, eh? Il podcast di ieri e noto una piccola differenza. Qui viene preso per pazzo Donato da Varese, guai a chi lo tocca, e viene esaltato questo stronzo di Paco da Belluno. Ragazzi, ma andate a fare in culo. Porro, c'è bisogno di porro. TikTok, toc toc, anzi TikTok è quello. Poi una volta era un liberale. Ma c'hai il refren, che c'hai? Dici sempre la stessa cosa. Questo ma va ripetuto. Ma che gliene frega la gente? Non sa manco il significato di liberale, dai, su. Ma perché? Perché per te la gente ma è stupida? Ah, toc toc toc. Perché disprezzi le persone? Perché? Liberale. Tu disprezzi le persone. Parole che vanno bandite da questa emissione. Lo dice lui. Lui stesso ma dice chi se ne frega di quello che era? Ma chi se ne frega? Ma lo era. Ma chi se ne frega? Non so manco il significato, vai. Cioè noi abbiamo quelli dell'OMS che prima ci hanno detto servono le mascherine e poi non servono le mascherine, prima servono i guanti e poi non servono i guanti. Toc toc! Tutte le aziende che hanno comprato i guanti e hanno obbligato i loro dipendenti a mettere i guanti, oggi che cosa fanno quando l'OMS dice che non servono i guanti? Se gli asintomatici non danno il virus, non cacciano il virus, cioè che gli asintomatici non portano il virus, abbiamo chiuso il mondo inutilmente. Chiudiamo i sintomatici, non gli asintomatici. Quindi qui abbiamo due possibilità: o chiudiamo l'OMS, però se lo fai, se Trump sei un delinquente, tutti ti bastonano, oppure pensi che sono veramente dei cazzoni. Ecco, io proponderei per tutte e due in realtà: chiudere e dire anche che sono dei cazzoni. Cioè chiudere, togliere i finanziamenti e dire che sono dei cazzoni. Sono dei non l'ho detto io. Siamo in preda al qualunquismo. Scusa, ma non è vero. La parola baraccone, un baraccone, l'ha detto un signore che fa il virologo in Veneto. Ha detto che bisogna chiuderlo. Ha detto che vanno cambiate le regole, anche le persone. E anche le persone. È un baraccone, dai, su. Intanto Giordano punta sulla signora Franca. La signora Franca contrapposta agli stati generali del governo, con tutti i potenti. Dov'è la signora Franca? Che posto ha negli stati generali? La signora Franca sarà una disgraziata, una che non gli arrivano i soldi. Che cazzo ne so, una che ha preso come simbolo. Non lo so, lo chiedo, sei tu l'esegeta di Mario Giordano. Non lo so. Sarà una signora che non gli arriva la cassa integrazione, è disoccupata. No, basta mettere uno disgraziato lì contrapposto ai potenti. Disgraziato, hai detto. Ma avete, ma è normale, un disprezzo per le persone. Utilizzate le persone e le loro sofferenze per fare la vostra radio e la vostra televisione. Voi siete disprezzabili. Usate queste persone. Porta la signora Franca, gli fai un grande servizio televisivo. Porta la signora Franca agli stati generali. Vai con le telecamere di Mediaset. Portala lì a fare domande. Vorrei sapere che cosa se ne fa del bonus bicicletta Franca. Me la date, Franca? Dov'è Franca? C'è Franca? Dov'è? Dov'è Franca? Franca? Non c'è. Franca Borin, dov'è? La regia. Non ce l'abbiamo ancora. Allora, Franca Borin. E dopo ve la faccio conoscere. Ecco, è arrivata dopo Franca, quando? Aspetta, è arrivata. Dov'è Franca? Cioè, la regia era? Non la inquadrava, aspetta. Ma cos'è, una comparsa? Cos'è? Cioè, significa che un disabile, per questo stato... gli stati generali vale, eccola, ce l'abbiamo Franca, eccola, lì. Franca, allora per Franca, ve lo raccontavo prima, 300, è pronta ad andare a incatenarsi Franca, sembra Donato da Varese, perché non ha ricevuto un euro. Respiro di Darth Vader di Guerre Stellari. Senti che conclusione, senti. Sembra Darth Vader di Guerre Stellari. Franca, cuoca in una scuola di Roma, che è in attesa da 100 giorni di ricevere i soldi, un euro, non l'ha ricevuto, e loro pensano agli stati generali, e non ce n'è uno che si inginocchi per Franca, non ce n'è uno che si inginocchi per Stefano. Io vorrei inginocchiarmi per loro, vorrei che uno si inginocchiasse per loro, invece di pensare a... pestestati generali. Parezzi, inginocchiatevi per la sorte di Franca. Inginocchiatevi per la sorte di Franca, dice Giordano. Inginocchiatevi davanti a Franca, la storia disperata di Franca. Non per George Floyd. La contrapposizione giordaniana è questa: da una parte chi si inginocchia per il negro americano, questo è una quello che vuole dire. Questo che vuole dire. E dall'altra chi non si inginocchia. Chi non si inginocchia per la disoccupata, per la gente che sta male, ma che vuol dire? Per la cassa integrata, per la cuoca che non riceve un euro dall'inizio del Covid. Questo è il punto, nessuno si inginocchia per questo. Questo è il grande teatro giordaniano, il grande teatro della realtà. E tu prendi l'ascensore, vai su e giù con l'ascensore interno, vergognati. Ma non ho mai usato perché non ho male alla schiena. Anzi, a differenza dei miei. Dove andiamo? Quindi vado a piedi, bacio le scale. Antonio da Roma, vergognati. Vai, sì, Antonio. Pronto? E c'è gente che pensa ad abbattere le statue. Pronto? Ad abbattere le statue, Antonio. Ma questi sono pazzi, certo. Sì, guarda, questo è Antonio, mi sa, Antonio. No, senti, sono andato a Piazza del Popolo, ieri, okay. Tutti San Pietrini lucidi. Questo è Antonio, sì, deficiente di Antonio, sì, è lui. Come deficiente? Certo. Perché sono deficiente, scusa? Sì, ma lo so, ti riconosco dalla voce, Antonio. Beh, mi riconosci, perché sono deficiente? Perché per me sei un deficiente, per quello che hai detto. Le altre volte ti sei dimostrato un deficiente, adesso non lo so. Io, e dimmi quale alle volte lo so, ma quando mi hai rotto i coglioni, comunista. Perché sulle cose giuste, vabbè, dai, forza, Antonio, vabbè, comunque, là, i Schibbo, come si chiama, i nulla facenti sono andati a Luci dai San Piazzini. Ma chi? Chi sarebbe? Ma chi ne non sai chi sono? A Piazza del Popolo ho trovato tutti i San Piazzini lucidi. E chi sarebbe? Dice che c'erano 3.000 persone in ginocchio, non lo so. Ma quelli che hanno fatto le manifestazioni, ma chi? Sì, non so chi erano, però con tutti i problemi che ci sono in Italia, vanno a stringere il pugno, un ginocchio. Contratti americani, ma che cazzo ci frega da americani, che lì succedono tutti i giorni queste cose qua. Allora? Qui c'erano 3.000 problemi qui. Ma questo lo sai qual è il problema? Qual perché il problema? C'è un'informazione sbagliata. Sbagliata. Metti dei nomi, guarda, qui è finito Scalfari. Finito Scalfari. Ha parlato pregiudicato, eh? No, prima, tu sei pregiudicato. Sì, però come intelligenza, come studio, come esperienza penso pure. Magari come studio no, perché ho fatto adesso elementare, però come esperienza le posso via un furto. Allora prima c'eravamo Montanelli che non era cruciale da padroni. Vabbè Anto, però andiamo al solo adesso, non è che dobbiamo fare la storia. Ma adesso io ogni sera sulle trasmissioni politiche mi trovi Feltri, Sallusti, Del Pietro, e allora criticano tutto quanto. E che devono fare? Non hanno fatto mai una proposta. Guarda, che criticare. Ma quelli fanno i giornalisti. Sono che cazzo vuoi? No, si può pure proporre. Ma che sei buono, Antonio. Ma tu non sei buono a fare. Ma tu non sei buono a fare un cazzo. Io te sto dicendo, io non te voglio dire parolacce stasera. Guarda, stasera che c'hai? Stasera che c'hai? Però non mi dire stronzate, perché te sto dire la verità. Ma stasera che c'hai? Non hanno detto una cosa importante. Neanche voi, perché tanto la ruina di questa nazione è l'informazione. Vabbè, che cos'è che non pagata, hanno detto? Tutta l'informazione, tutta pagata. Non hanno detto nessuno che adesso un cittadino, una famiglia normale, un uomo per dire operaio prende 1.200, la moglie pure lo che lavora prende 600-700 euro. Non hanno detto che stanno, da adesso se segui da questa cosa, hanno più quasi 2.500 euro di spese in più. Vabbè, allora? In più. Per che cosa? Come più? Perché cosa? Allora le mascherine, quattro persone, quelle da 60 centesimi, quanto viene l'anno? Quanto viene? Viene 1.000 euro, poi? Quattro persone. Poi c'è sta quello là, il coso per lavarsi le mani, no? Giusto? Ma che c'entra, dai, come su. Che c'entra? So spese, ma non essere... La famiglia, non deve affrontare quelle cose là, ma non essere patetico, dai, su. Io sono patetico, sei tu che non date queste informazioni importanti. Ma è tre mesi che parliamo di queste cose, ma non essere... facenti che sono da Piazza del Popolo, ci vuole i leoni qua, le sardine o i grilli. Ma chi è andato a Piazza del Popolo? Un sacco di gente ce l'ha ogni giorno. Chi c'è da Piazza del Popolo? Chi c'è andato? Chi c'è andato? Chi c'è andato? Chi c'è andato? Chi c'è andato? Chi c'è andato? Chi c'è andato? Le sardine, non c'hanno un cazzo, sono nulla facenti. Mai conosciuto una sardina vita mia? Che fanno uno spinello, poi decidono da riunirsi. Non mi pare che siano pieni di spinelli, amico mio. No, chi so. Ma ti farebbe nulla facendo. Comunque, a te una canna. La maggior parte te dico a io. Te una canna, a te una canna ti farebbe pure bene. Ma la canna io mi dico perché non c'ho bisogno, perché il cervello mio ancora funziona. Allora, quelli là, lo sai che sono quelli, lo so di quelli si mettono lì, sei da tu, che tutto quel po' vanno a fare, ma non c'hanno nessuna iniziativa politica, non c'hanno. Tu lo sai che da quando hai iniziato a parlare non ho capito un cazzo del tuo... Però argomenta, è registrata, la senti dopo. Ma vaffanculo, va, Riccardo da Chieti, vai, Riccardo, dimmi. Eccolo. Dimmi. Due cose volevo dire. La prima è, io almeno personalmente mi sono rotto il cazzo di stare a sentire ancora concionare sulla questione di quello lì che hanno ammazzato in America. A me personalmente, ma come a me tanta altra gente. Ma glielo spiegare anche agli americani che cazzo. Continuano a protestare. A lui non gliene frega un cazzo, a me, ma c'è tanta gente. Come legittimo, me che per carità, no, parla per te intanto. Parla per te intanto, perché quelle persone negli Stati Uniti non è che sono scese in piazza non perché qualcuno li ha chiamati. Ma lascia perdere, la seconda cosa che volevo dire. E anche in Italia non è che la gente manifesta così per caso, perché ci crede, capito? A Valentino. Differenza tua, ci sono persone che io credono in qualcosa. Evviva! Io credo invece che nessuno si è inginocchiato quando un clandestino a Macerata l'anno scorso, quando è stato massacrato, fatto a pezzi e mangiato una ragazzina italiana. Mangiato. mangiato adesso. Non solo, mangiato? Ma si sono scandalizzati mangiato. Quando mangiato, non mi scusa, scusa un momento. Scusa, fermo un attimo. Questa è una notizia interessante. Ci sarebbe una persona che avrebbe mangiato addirittura una vittima. Così hanno detto. Aspetta, così hanno detto chi? No, andiamo a profondo, questo è molto interessante. Quale chi? Chi? Nomi per piacere. Mi fai per allora fermo, calmati, respira. Lui dice nessuno si è ginocchiato per questo. Cerchiamo di capire. No, no, la cosa è più interessante. Cerchiamo di capire. Chi qualcuno ha mangiato pezzi di questa ragazza? Ucciso e ci dispiace. Massacrato ed è terribile. Ma poi tu hai aggiunto mangiato. Allora, è molto interessante. Poi hai detto l'ho letto da qualche parte. Io da qualche parte ti vorrei mandare a fare in culo, ma non lo faccio perché da qualche parte vorrei saperci. Ah, adesso c'è un sospetto. Allora, con il tuo rigore giornalistico che ti contraddistingue, mi puoi spiegare dove hai letto che questa non cambia la sostanza, fermi tutti. Che è l'altro che ferma la conversazione. Chi è l'altro scemo che ha parlato? Comunque, ehi, Fermi tutti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Buonasera Parenzo. David, Natania, da casa Parenzo. Che è successo la riforma della Bellanova che voleva regolarizzare 200.000 irregolari? Solo 10.000 richieste. Solo 10.000 richieste. Ma ci rendiamo conto di questo che cosa cazzo vuol dire? Vuol dire che questa gente vuole rimanere nell'illegalità, vuole continuare a lavorare in nero, non vuole pagare un centesimo di tasse e noi facciamo pure le leggi per dare buone condizioni di vita a questa gente, ma che andassero a fare in culo, grazie. Tutti quei fenomeni che protestano in piazza e appoggiano il fascismo, teste di cazzo, oggi voi dovreste spogliarvi di tutto e partire, andarvene dall'Italia, pezzi di merda. Oggi il duce dichiarò guerra, figli di puttana, merde. Da Forlì, avanti, proseguiamo caro David, proseguiamo, vai Luca da Forlì, dimmi. Non sento niente Luca, non sento niente, mettiti bene. Pronto? No, non sento, sei in viva voce, auricolare, ma hai mai rotto i coglioni, dai Luca. Dimmi Luca, dimmi. Ho avuto allora, 2-3 giorni fa sono andato a casa, io premetto, c'ho 26 anni. Sì. Crucio, io ho fatto l'amore con una donna di 42 anni. Beh, va benissimo, per carità. 26-42. Ma qui c'è da capire una cosa. Sì. Che un conto quando fai l'amore con una ragazzina della mia età, una mia coetanea. Sì. Ma quando ti prende una 42enne. Vabbè, ma questo è un moglie, classico, non è la prima. Una prima... divorziata. Ma ho capito, ma donna... non ci stai raccontando qualcosa di nuovo, è abbastanza evidente, poi dipende ma dalla sì, persona. Ma qui Crucio bisogna aprire un dibattito perché. Ma non c'è dibattito da aprire, non c'è alcun dibattito, è una cosa stradetta, straarcinota. Cioè, è chiaro che tu, 26 anni, ti sei ingrifato perché una divorziata, non so cosa, di 42. No, Crucio, si è concluso. Prima ha mandato un messaggio. I miei figli sono fuori dai coglioni, datti una mossa. Beh, questo fa molto arrapare, devo dire la verità. Cioè, fa molto arrapare, no, non c'è dubbio. Ma c'è proprio da dire che poi dopo, per me... A parte che secondo me tu non hai 26 anni. Cioè, posso dirti che tu non hai 26 anni. Comunque. Crucio, io ho 26 anni. Vabbè, d'accordo, ti sei scopato una di 42. Allora, qual è il punto? Cioè, qual allora, è la novità? Che era la prima volta che mi capitava. Cioè, va bene, sono contentissimo. Ma perché hai sentito il dovere di... Ma perché hai sentito il dovere di telefonare qui? Questo è anche ma l'altro. Ma perché volevo condividere con Crucio? No, no, ma va benissimo, Luca. Va tranquillo, sono contento per te, non ti preoccupare. Ciao. Credi che questa mia non sia poesia? Allora, posso dirti una cosa, caro Davide? Mi è successo qualche tempo fa di incontrare, di incrociare una signorina, sì, che si arrapava moltissimo in una pratica. Adesso non credere, chissà quale pratica, eccetera, eccetera, pratica sessuale. Cioè, ti giuro che si praticamente si bagnava. Cioè, lo dico in maniera esplicita, come giusto dirlo. Cioè, si eccitava, con tutto quello che puoi immaginare, strizzando i punti neri. Ti giuro, strizzando i punti, cioè si metteva nella schiena dietro. La cosa, la cosa, perché dovrebbe essere così? No, interessante, ma è incredibile. Cioè, mi diceva che provava quasi un brivido di eccitazione, praticamente un arrapamento che poi si poteva trasformare anche in prestazioni sessuali. Perché si metteva sulla schiena, vedeva un punto nero o un po' di grasso, sei una di quelle, no, una di quelle cose che uno può avere sulla schiena, che nascono, che ci sono naturalmente, sì, che quasi tutti hanno, naturalmente. No, tu vai lì, quelle secrezioni che non sono ancora secrezioni, stanno lì per esplodere, ti metti lì, strizzi, ci sono addirittura dei programmi su qualche rete televisiva, no? E tu vai lì, strizzi, esce fuori, tac, lo spruzzetto giallo di pus, di grasso, eccetera, eccetera, quello che è. E praticamente lei godeva con questo, cioè prova dei brividi di emozione. Ma che ti devo dire? Ma volevo un tuo parere su questa qua. È un problema, secondo te? Una cosa grave? No, non è un problema in alcun modo. È un problema parlarne, però, perché mi sembra una follia. Ma uno può eccitarsi, secondo me, per qualunque cosa. Magari uno si può eccitare perché sente Donato da Varese, Mauro da Mantova, tutti, sì, i razzisti che chiamano qui. Ma questo è strano. Una donna che si eccita perché strizza i punti neri o i brufoli, ma può strizzare quello che le pare, o le palle di grasso di un uomo sulla schiena, non so dove. È abbastanza strana questa cosa qua. È una parafilia, lo potremmo definire una parafilia, se i cattolici non si offendono, perché alcuni cattolici si sono offesi perché un gruppo musicale ha fatto l'elogio della podofilia, non della pedofilia naturalmente, ma della podofilia. Sì, e sì, ne parleremo, e ne parleremo. Enrico da Roma, ma figuriamoci. Vai. Enrico da Roma. Vai, Enrico. Dimmi. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Allora, volevo ribadire un'altra volta. Come deconsueto, che le casse integrazioni ancora non sono arrivate. Sì, sì. A nessuno. Sì. Beh, no, a nessuno non è vero che sono arrivate. Dicono che verranno tutte date entro pochi giorni. Non lo so. Comunque, certamente sono arrivate con grande ritardo e qualche volta non sono arrivate. Dunque? È una cosa inaccettabile su un paese civile che paga le tasse. Che una persona che lavora e paga le tasse, vengono detratti i soldi tutti i mesi sulla busta paga, e vengono, e fra l'altro quei soldi lì vengono dati per far mangiare loro, vabbè, pure, allora, per i redditi di cittadinanza. È una cosa inaccettabile. Poi lasciamo una domanda per Parenzo, tra l'altro. Come giudichi la Boldrini che sta inginocchiata di fronte a una cosa del genere? Ma questo già l'abbiamo detto. Ma non mi sembra una cosa così eclatante. Non è che ha tolto diritti ad altri o non si è occupata di altro. Cioè, tu dici, ma Rico, fatto, si doveva inginocchiare, di solidarietà si internazionale. Doveva, ma chi se... Ma che c'è da discutere? No, magari Enrico che dice da si doveva inginocchiare per altro, dice Enrico, magari. Ma magari che ne sappiamo tutto il resto delle altre cose che ha fatto? No, voglio sapere come voi vedete il fatto che una persona in Parlamento, quindi in diretta TV, visto da tutti, si è inginocchiata e si è fatta vedere. Vabbè, semplicemente. È due giorni che ne parliamo, dai, via, dai. Veramente pensando di scendere in campo con la politica? No, purtroppo ogni volta che decido di far qualcosa mi si associa alla politica. Questo è veramente un atto di una persona che ama l'Italia, che soffre di vederla così e che vuol fare qualcosa di concreto per l'Italia. Io è già un'idea che avevo, diciamo, prima di questa tragedia del coronavirus. L'Italia dal 2008, diciamo, è in crisi, è uno degli unici paesi in Europa che non si è ancora sollevato. È con noi il principe Emanuele Filiberto. Eccoci qui. Buonasera. Con la marcia reale, accolto dalla marcia reale. Avanti tu. E con questa marcia sarai esiliato per sempre. Allora, ecco, caro... qua, io ne ho un'altra, se volete, di marcetta. No, che cos'è la marcetta? Ma che c'entra? è quella antimonarchica. Si sveglia il popolo che langue, aspetta. Si sveglia il popolo che langue. Aspetta. Latride il nostro sudore. Nel mondo siamo tutti fratelli. Lasciamo le schiere ribelli. Sorgiamo che giunta è la fine. A morte il re, il principe. È un po' forte, è un po' forte. Indubbiamente allora, era un po' principe, forte, ma sono dei calcoli che mi segnalano alcuni ascoltatori. Caro principe, qualcuno ha preso il suo annuncio di voler fare qualcosa per l'Italia nei giorni scorsi come una specie di discesa in campo. Posso dire solo evviva. Allora, io però le voglio dare un consiglio. Lei ha già spiegato che non è assolutamente, non vuole fare un partito, non vuole fare nessun movimento, eccetera, eccetera, cosa che potrebbe tranquillamente fare. Le do un consiglio: si tenga lontano da queste cose qui, dalla politica italiana, si tenga lontanissimo dalla politica italiana. No, no, ma io, guarda, questo lei lo sa, e ne abbiamo anche parlato più volte. Io della politica mi voglio tenere lontano, però dell'amore dell'Italia mi voglio tenere molto vicino. Ecco, questo non cambia niente che una persona, un cittadino italiano, si preoccupa del futuro del suo paese e vuole organizzare delle conferenze, dei webinar in questo caso, con dei temi diversi, che può essere l'economia, come può essere la scuola, la cultura. Ma sì, va bene, ma lei può fare tutte, ma va benissimo, per carità, lei può fare tutte le conferenze che vuole, però sa, quando parla il principe, fa un annuncio, sembra che lei voglia fare una specie di partito, di movimento per scendere in campo, che per me va benissimo, perché secondo me l'unico modo che lei ha per dare un contributo, essendo persona molto più intelligente di altri cialtroni che sono al governo in questo momento, caro principe, sarebbe quella di candidarsi in Parlamento. Allora lei ci dica che prima o poi... Ma perché non ha voglia? Si dovrebbe candidare in Parlamento, sarebbe una cosa grandissima, un Savoia di nuovo in Parlamento, sarebbe una cosa grandiosa. Io farei il suo assistente personale. Il manutengolo di casa Savoia. Voglio fare il portaborse in Parlamento di Emanuele Filiberto. Cioè, posso dire, vorrei fare questa cosa. Guarda, qua. Tu e Dio non abbiamo bisogno di una poltrona in Parlamento. Ma no, ma è per pigliare per il culo per 5 anni le persone, ci divertiremo come matti, dai. Pigliamoli per il culo in un altro modo. Guarda, io ti dico, ci sono persone molto più in gamba di me che ne sanno molto di più e loro dovrebbero andare in Parlamento. Ma lei sta dicendo che quelli adesso non sono in grado, cioè non sono poco intelligenti, diciamo la verità, diciamola tutta. Lei che Diciamola tutta che il taglio del Parlamento ben venga, ne dovrebbero tagliare molti di più, perché molti sono lì. Diciamo, cioè lei farebbe un Parlamento di quante persone? 200 al massimo, 200 persone in Parlamento. Ma pensiamo all'America, che è una popolazione di 370 milioni, quanti sono? 100, non lo so, 150. Dunque, che facciamo? Un Parlamento di 100 persone può bastare per l'Italia? Un Parlamento di 100? Cioè... No, l'importante è fare un Parlamento di persone in gamba, di persone preparate. Ho capito, quello però è il popolo che vota. Mettere la meritocrazia in centro alla discussione. Quello però è il popolo che vota. Io direi una cosa, guardi, io ho fatto l'altro un movimento tempo fa e possiamo unire le forze. So che è una cosa un po' bizzarra, vero Parenzo? Cioè, è una cosa un po' strana, diciamo, unire le forze il principe e il signor Cruciani, che ha fatto un movimento che si chiamava Liberi Armati, no? Cioè il movimento Liberi Armati, caro Parenzo, mi senti o non mi senti? Cioè sarebbe una cosa piuttosto bizzarra, non mi senta, si è staccato, perché qui la tecnologia non funziona un cazzo. Ecco, cioè il problema è questo, che non c'è il 5G ancora in Italia, siamo indietro. Siamo indietro. Ma questo è anche una lei vorrebbe più 5G in tutta Italia, diciamolo. Io vorrei oggi nel mondo in cui viviamo vorrei più velocità, vorrei più 5G, più 5G, diciamolo, così facciamo incazzare. Vorrei più conoscenza, vorrei più sostenibilità. Ma lei lo farebbe, principe, lei lo farebbe il vaccino contro il coronavirus o no? Lei lo farebbe subito, è a favore dei vaccini oppure ha qualche dubbio? Beh, certo. Io ho fatto il vaccino per l'influenza e farei anche quello, evidentemente quello del Mettiamo che lei diventi capo del governo, cosa improbabile naturalmente. Governo Emanuele Filiberto in Italia. Chi metterebbe al ministro degli interni? Cioè, il bello ministro degli interni, ecco, uno bello. È interessante. Cioè, mettiamo una cosa incredibile: Emanuele Filiberto diventa capo del governo, l'ex Savoia. Per me sarebbe straordinario. Io vorrei gli esteri, presidente. Scusa, quante lingue parli? Sicuramente più dell'attuale, no? L'inglese sì, mi difendo assolutamente. L'inglese sì. bocciato, sei bocciato. Inglese sì. Allora datemi. Non ha manco la laurea, principe, manco la laurea. Cioè, via, bocciato, via, via. Vabbè, vabbè, nel suo governo ideale, chi farebbe, chi farebbe ministro? Guarda, sinceramente, oggi come oggi non ho la più pallida idea. E non è io non sto neanche pensando del tutto a questo, io sto veramente pensando all'appuntamento di domani. Riunisce un po' di gente a parlare dell'Italia sull'economia. C'è troppa gente che chiacchiera. Però posso darti un consiglio, caro Emanuele Filiberto? C'è troppa gente che chiacchiera. Gli stati generali, tu che organizzi le conferenze, gente che chiacchiera. Qui bisogna candidarsi e te bisogna che ci candidiamo. Io ho un grande programma: legalizzazione della droga, legalizzazione della prostituzione, più armi agli italiani, spostare il Papa ad Avignone, mandare via il Vaticano. Ma pensa che cosa grandiosa che. Noi abbiamo già ridotto molto, diciamo, lo stato del Vaticano. Non ma mandiamoli una cosa mandi a Avignone, ci scomunica subito e non capiamo più niente. Non dimenticare che abbiamo anche lui dice noi di casa Savoia l'avete ridotto. Sì, sì, è vero. Voi di casa Savoia l'avete ridotto. Però scusi un attimo, vogliamo. Lei si inginocchia per quel. Si è mai inginocchiato per qualcosa, Emanuele Filiberto? Io mi sono inginocchiato davanti al Papa, ne ho conosciuti tre e mi sono sempre per con gran rispetto. Io sono anticlericale, purtroppo sono anticlericale. Devo dire che mi inginocchio anche davanti a una bellissima donna, mi inginocchio anche davanti a una persona che mi può insegnare molto di quello che so. Ma inginocchiarsi come stanno facendo adesso queste stars per quello che succede in America o altre persone politici in Italia? Quello che succede in America, come quello che succede ovunque, è molto grave, ma è molto grave dai due lati, voglio dire. Cioè? Dal lato poliziotto, ma anche dal lato della violenza. Giusto, certo. Questi sono degli atti molto gravi. Ma sono dei criminali quelli che manifestano e distruggono i negozi, eccetera, eccetera, perché poi fanno un torto agli stessi neri poveri. Quelli che manifestano pacificamente non sono criminali. Sì, ma inginocchiarsi è un atto che le piace, inginocchiarsi per questa vicenda. Non c'è un po' una moda in questa cosa qua di inginocchiarsi per questa cosa di Floyd anche in Italia, no? Inginocchiarsi in Parlamento. Allora, inginocchiarsi nel Parlamento italiano lo trovo ridicolo e ho visto la Boldrini. Esatto, sì. Vabbè, ma è un gesto politico, principe, però. Dai, è un gesto politico di vicinanza a quello che avviene nel mondo. Ma il Parlamento non ci si inginocchia. Ma allora che facciano veramente un avvicinamento, che prendono delle posizioni, che il governo faccia delle cose, voglio dire, c'è una ristrutturazione del tutto anche. Voglio dire, non è normale che nella polizia ci sono delle persone, dei razzisti o delle persone che sono così, va bene, capiamo anche come... Sì, però inginocchiarsi in Parlamento, lei dice è ridicolo, no, principe, inginocchiarsi in Parlamento? È ridicolo, è una faccenda, prima di tutto, americana, poi va ovunque, ma devo dire, questo lo trovo ridicolo, ma sono in tutto, io sopporto molto di questo movimento, credo che ci sono delle inuguaglianze enormi con i neri, ma anche con i gay, ma anche con... Scusi, principe, che voto dà il governo Conte lei complessivamente fino adesso in questa gestione del coronavirus? Cioè, facciamo due domande un po' veloci. Il voto al governo Conte, che lei che vuole insomma dare un contributo all'Italia, che voto dà il signor Conte? No, 5 per le idee e 0 per l'esecuzione delle idee. Dunque facciamo la media, 2 e mezzo. Disastro, 5 per le idee e 0 per l'esecuzione, benissimo. Lei preferisce la vagina senza pelo o col pelo? Un'altra cosa completamente diversa. Ma chiedere questo però al principe? Però si deve andare da una parte all'altra. Il principe è anche un principe che è molto attento all'elemento femminile. Allora io le chiedo una cosa molto interessante. Lei preferisce col pelo o senza pelo? Perché qui non si può sfuggire a questa domanda. È una domanda fondamentale. E soprattutto anche Sciaboletta. Cosa preferiva Sciaboletta soprattutto? Sciaboletta non lo so, non glielo ho mai chiesto. E lei invece? Io amo la donna, la donna vera, quella che se la tiene. Ah, quella che se beh, molto bene, molto bene. Sono molto felliniano, diciamo, quella che si tiene il pelo, sì, molto felliniano. Come funziona nelle case reali, però, a questo c'hanno punto? Cioè, qual è la tradizione delle case miele, reali? Caro Parenzo, ceretta al miele. Che vuol dire ceretta al miele? Una ceretta molto speciale, che è un miele che viene dalle Alpi dell'Himalaya, che cioè si fanno tutti la ceretta, dice le case reali ormai si anche fanno le... tutti la ceretta col miele dell'Himalaya. Ma possiamo parlare di cose serie? No, ma questa è una cosa serissima, ma è una cosa serissima questa cosa. Ma tutti gli italiani guardano giù, no? E incontrano una cosa oppure l'altra, per cui no, però le faccio com'era la storia? Quale? Disse la contessa passando sullo specchio, come me la vedo nera, com'era questa cosa? Esatto. Comunque noi non ci potremo mai incontrare, perché è un programma troppo conservatore, un programma troppo, ha dei programmi troppo moderati per me. Io voglio riaprire i bordelli, legalizzare la droga, spostare il Vaticano, anticlericalismo a mille, armi distribuite a più non posso. Io sono così, cioè una roba dall'assalto. Lei è tutto. Ma allora scusa, perché non provi a prendere il posto di Trump? Beh, insomma, un programma un po' trampiano. Lei piace Trump? È troppo signor, moderato signor, Trump. Signor Trump, cioè, piace a lei? Che voto dà Trump? No, non devo dire che non è il mio favorito. Non gradisce Trump. Sì, è poco non elegante. È anche. Non è elegante, dai, principe. Diciamo la non è elegante. Non è regale. Non è regale. Su però questo posso, ha ragione. Posso dire un'altra cosa. Allora, sì. Mi sembra che l'avventura televisiva di Emanuele Filiberto sia finita, perché se vuole dare un contributo al paese, si può dire che lei dice difficilmente la rivedremo ancora in televisione, o dipende dai soldi, principe? Dipende soprattutto dalle idee, ma al di là di questo voglio dare il suo contributo, ma voglio di nuovo dire la mia, che questo non è una vabbè, lei non vuole fare un partito, lei non si candiderà mai in Parlamento, lo possiamo dire? Italia non è un partito, è un'idea di un... Ma più Italia, ma Freccero, ma che roba è più Italia? Freccero, ma che cosa è più Italia? Aspetta, senta Freccero un attimo, senta Freccero. Sembra la matematica più Italia, ma che cos'è? L'algebra, dai, l'algebra si va al ginnasio, l'algebra, dai. Ma poi a lei non piacerebbe, Freccero, un Savoia in Parlamento? Sarebbe straordinario ripetere le naturalmente, situazionismo pure, naturalmente, meraviglioso. Vederlo in quello scranno, naturalmente, che cacciò la casa reale del passato, naturalmente sarebbe un grande revanchismo, bellissimo. Scusi, bellissimo. Domanda conclusiva, caro principe, avendo detto che lei non andrà mai in Parlamento, che sicuramente non si candiderà, eccetera eccetera, benissimo, ma Mussolini una cosa giusta l'ha fatta per l'Italia, signor Mussolini, una cosa giusta, qualche cosa di giusto l'ha fatto? No, ma è interessante questa cosa, perché ancora se ne parla. Se ne parla anche troppo. Vedi, il problema dell'Italia è che siamo tutti, ci giriamo tutti verso il passato e non ci giriamo verso il futuro. Sì, ma una cosa giusta. Però c'erano dei monarchici nella Resistenza, principe? C'erano dei monarchici nella Resistenza. Ma lei avrebbe fatto la Resistenza, ad esempio? Lei l'avrebbe fatta la Resistenza? Mia nonna è stata molto attiva nella Resistenza. Lo so, sì, ma tu avresti fatto la Resistenza, ad esempio? Interessante sapere questo. Avresti combattuto contro Salò? Io sicuramente l'avrei fatta, sì. Ma per cui Mussolini, diciamo, ha fatto poche cose buone, una cosa giusta l'avrà fatto o no? Mussolini purtroppo ha portato sto paese allo sfascio. Adesso mettiamola così, i fascisti si incazzeranno con lei. Grazie principe, un abbraccio. Allora, appuntamento per favore domani. Sì, collegatevi. Collegatevi, potete andare sul sito. Ma chi parla? Ma chi parla? Vabbè, ciao. Parla. Come ciao? Ciao. Got the world, boys, to sell, you make it. You advertise now, you are in take it. All this charm, only the best for you. Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qui. La zanzara. Alcuni dottori la chiamano podofilia. Io mi son preso male coi bambini, dai no. Ma guarda questa vocale, può cambiarti la fedina penale. Non ce n'è Covid. Lo metto subito in chiaro, a me piace il full job. Ciao, come stai e che numero hai? Sono Vanda e ho 46. Come gli euro che io ti darei per farmi fare tante seghe coi piedi. Le seghe coi piedi. Se vuoi farlo protetto, e se hai problemi dimmi così, ho un calzino e te lo metto sui piedi. Le seghe coi piedi, sarà pur feticismo. Le zone erogene son belle quando sono sulle unghie dei piedi. Ma Cruciani pretende i piedi di una donna belli, perfetti, profumati. Ma la vera domanda è, Cruciani, i piedi, come li ha? Un interesse sessuale diverso dai più. La stimolazione genitale è per me assai banale. ma quanto è bello il maleolo, quanto è bello il fuggio. Ciao, come stai e che numero hai? Sono Luana e ho 46. Come gli euro che io ti darei per farmi fare tante seghe coi piedi. Beh ragazzi miei, alcuni gruppi cattolici, in particolare un gruppo cattolico molto oltranzista, diciamo così, pensano che questa roba qui sia una roba offensiva, sia una roba addirittura da cancellare, non so, da reprimere, perché podofilia è una parafilia e le parafilie sono perversioni evidentemente non commentabili, non comunicabili. E poi dicono basta sostituire la parola E alla parola O e si arriva a pedofilia. Però non c'entra un cazzo, amici miei cattolici. Questa è una straordinaria canzone, straordinaria, insomma una bella canzone che ci ricorda una delle pratiche più amate dagli ascoltatori della Zanzara, cioè dire le seghe con i piedi. Forse ce ne siamo occupati troppo poco di questa pratica sessuale, caro Parenzo, in questi anni. Non è mai, dici, c'è sempre il tempo per recuperare. Anche perché posso dirti una cosa, io amo i piedi delle donne, ma non è una pratica che mi piace. Non so perché, non è una pratica che mi piace. Posso dirti in maniera chiara, cioè sembra strano, no? Io adoro i piedi delle donne, ma adoro guardarli. I piedi delle donne all'opera nello smanacciare un membro maschile, te lo dico in maniera quasi aulica, un pene maschile, un pene di un uomo, non è una cosa che mi piace, non è una cosa che mi fa andare i matti, non lo so, cioè non ho, sì, l'ho praticato, l'ho fatto, per carità, per curiosità, ma non è la prima cosa che mi viene in mente, ragazzi. Perché tu non l'hai mai fatto, non ti sei mai fatto fare una sega coi piedi, adesso, vedete, però non è possibile, dai, su, ma non è possibile che hai perso queste cose fondamentali, queste cose, ma no, ma ho capito, se ho perso. Ma perché parlare alle 20.02 nella radio di proprietà della Confin? Perché delle, tu inviti di cosa ancora si fa una volta i piedi? Perché? Il 10 giugno inviti ancora una ma volta perché? Gli editori perché di questa radio a cancellare perché questa emissione? Ma no, ma io non vorrei chiudere niente, ma mi costringi a chiudere, mi costringi a chiudere, guarda, mi costringi a chiudere, ma che do- ma perché ma che con male i piedi c'è uno male dovrebbe c'è fare queste ma pratiche? Ma che vuol dire? Capito? Oppure che uno lo faccia quel che vuole con i piedi, ma anche con delle bottiglie. Ma non bottiglie, mi dire che non ti sei mai fatto, non ti sei mai fatto fare una sega con i piedi. Mai fatto fare una sega con i piedi. Mamma mia. Ok, ragazzi, oggi un ascoltatore da Roma mi ha mandato questi WhatsApp molto aggressivi, adesso li sentiamo in batteria. WhatsApp molto aggressivi contro di me. Molto, molto aggressivi contro di me questi. Mustafa da Modena, adesso li troviamo. Sì, pronto, no? Dimmi Mustafa, dimmi. Niente, io ho intervenire solo perché stanno tirando fuori sempre questo ginocchio. Non ho capito, non sento un cazzo, Mustafa, non sento nulla, facci capire qualche cosa. È chiaro. Alza la voce, capisco che sei Mustafa, dunque magari hai qualche problema. No, va bene, io non devo dire niente, sono 36 anni che sono a Modena. Ah, benissimo, sto sentendo benissimo. No, prima non sentivo, no, non è che... No, perché Mattia ero a casa. Niente, dicevo, per questo ginocchiamento che la gente si ginocchia, ma non è per la persona in sé, ma è un simbolo. È un simbolo per tutte le persone che soffrono, che sono sottomessi al razzismo. Potrebbe essere anche un operaio che non l'ha preso. Che c'entra l'operaio con l'inginocchiarsi per no, Floyd, un signore americano che è stato fermato dalla polizia e poi è morto. È stato bloccato in maniera assurda dalla polizia e poi è morto, probabilmente a causa di soffocamento per colpa di quel poliziotto. Ragazzi, sì, di che diciamo? Di che parliamo? Che, dai. Cosa c'entra inginocchiarsi per altre cose? Non c'entra un cazzo. Quello è un fatto specifico. Voi avete detto. Ma perché non si inginocchia per la persona che non ha preso la cassa di grosso, non ha preso il soldo, quelle che sono morti? Ma non c'entra, non stanno ginocchiando per la persona, ma il fatto in sé, il razzismo. No, ma certamente, ho capito. Contro anche le sofferenze delle persone anche che non prendono i soldi con Italia, che non lavorano. Ma non c'entra niente, quella si è ginocchiata per una cosa che è avvenuta in America, in Minnesota, che di cui sì, capito, che manco è la prima volta. Per adeguarsi a un movimento, per adeguarsi ad un movimento mondiale. Per una signora che non ha preso la casa. Ma cosa c'entra? No, perché però ti capisco, Mustafa, cerca di capire. No, le persone che intervengono e dicono questa cosa. Sì, Giordano ha detto questa cosa qua, perché dice l'inginocchiamento potrebbe essere una minchiata, ma l'inginocchiamento è un atto che uno fa in Parlamento per una cosa molto grave. Siccome comunque in Italia sono successe cose molto gravi, sempre, non abbiamo mai visto nessuno, diciamo, è vero che l'inginocchiamento in questo caso era preso da quello che fanno in America, però non abbiamo visto, come dire, un atteggiamento come dire, emotivo nei confronti dei drammi italiani, ma tranne che per i migranti. Ma chi ve l'ha detto? Ma questo sto ma spiegando. Guarda, posso dire una cosa? Posso dire, a me non me ne frega un cazzo, capito? Questo è il punto. Dimmi. Il Parlamento italiano sono successe anche delle cose peggio del ginocchiarsi, sono successe delle cose. Ma certo, ma non c'è dubbio. Perciò può passare anche quella. Cioè, ma no, ma infatti mica ho detto che è la fine del mondo. Sono tirate fuori le mortadelle, sono strappate fuori shop. Cioè, ciao, appunto, Mustafa, ciao, appunto. Mustafa, ciao, ciao. Appunto, appunto. C'è il capo con le roncole, pezzo di merda. Hai capito? Ricco infame, a pezzo di merda, là non hai capito che succede. Se sono minacce belle buone, vamma a fare la denuncia, perché io quando vengo a Milano te sfonno, pezzo di merda. Ce l'hai il numero, eh? O vedi il numeretto mio qual è? Io te rovino, pezzo di merda. E siamo in tanti, te rompemo il culo, pezzo di merda. Hai visto come hanno buttato giù la statua a Bristol? Poco alla volta, amico mio, poco alla volta, poco alla volta. Il tempo ci darà ragione. Prima sono stati fatti una serie di passi avanti, piccoli passi avanti. L'altro giorno invece finalmente uomini bianchi hanno tirato giù, diciamo, gli emblemi del colonialismo imperante culturalmente ancora oggi, no? E quindi il prossimo passo sarà l'eliminazione fisica, amico mio. E quando si passa l'eliminazione fisica, tu sei uno dei primi dalla lista di questo paese del merda. E quanto, mamma mia, non vedo l'ora di vederti implorare con gli occhi e la faccia insanguinata implorare pietà. Chiamiamo sto imbecille, dai, divertiamoci un attimo con questo cretino, dai, facciamogli sputare sangue. Ma è inaudita. Ah sì, ma questo qua, figurati, è uno leone da tastiera, non ha il coraggio nemmeno, manco sa come arrivare a Milano questo qua, cioè, nemmeno sa, è incerto. Tutto questo odio? Perché questo qua va messo al pubblico, va esposto. Forse al pubblico bisogna ludibrio. Abbassare un po' i toni, puntare più sul ragionamento per eliminare queste, telefonate che arrivano cattive. Pronto? Sì. Oh, hai rotto il cazzo con questi messaggi, Pezzo di merda, lo sapevo che mi chiamavi. No, ma hai rotto il cazzo con questi messaggi. Pezzo di merda, lo sapevo che ma dove vai? Ma dove vai? Ma non hai il coraggio di fare nulla. Non hai ma non hai il coraggio di fare nulla. Ma non hai il coraggio. Ma tu sei semplicemente un quacquaraquà, questo è il punto. Sì, può darsi, ma tu sei un quacquaraquà. Che non hai il coraggio di fare nulla. Ma chi? Voi, ma voi chi? Ma voi chi? Ma il popolo di che? Il popolo. Ma quale poveracci? Noi che ti vendiamo, ma tu sei semplicemente un cretino che chiama, noi che ti puliamo, ma dove vai? Ma dove vai? Noi che ti laviamo la macchina, noi vi mangeremo il cuore. Ma che mangerai il cuore? Sei semplicemente un cretino che minaccia per fare finta di minacciare. Sei semplicemente un poveraccio e basta. È quel pezzo di merda di Cruciani. Cruciani, è solo chi c'è accanto a te? Chi c'è accanto a te? Chi c'è accanto a te? Mio fratello, tuo fratello. Che cazzo vuoi? Ma che sì. Deve stare mio fratello, ci sta, stiamo a lavorare, mica no, siete semplicemente due poveracci e due disgraziati, tu e tuo fratello, probabilmente anche lui. E tu sai che cosa sei? Due disgraziati. Lo conosci pure, coglione. Com'è che conosci fratello? Siete, ma che ne so. Com'è che si conosce fratello? Siete due disgraziati. Lo conosci tramite Richard Benson, tu, mio fratello, pezzo di merda. E detto tutto, vabbè. Ma siete due disgraziati e basta, siete due disgraziati. Tu sei un disgraziato soprattutto, tuo fratello non lo conosco. Merda. Tu prima o poi morirai come quella merda di Feltri. E quando morite noi faremo un rave sulla vostra tomba. Ma che fai? E le vostre ossa, pezzo di merda. Ma quale rave? Ma tu non sei in grado. Ma tu non sei in grado di fare nulla, nulla, nulla. Non sei in grado di fare nulla. Quello che faccio io. Hai fatto il tuo piccolo show. Hai fatto il tuo piccolo show. Tu sei nato privilegiato, tu sei nato ricco, coglione. Tu sei nato ricco. Hai fatto il tuo piccolo show. Piccolo show. Piccolo show. E invece sai che succederà? Che noi che siamo quelli che nella vita si sono fatti il culo, che prima o poi banchetteremo con le vostre ossa, pezzo di merda. È una questione di coscienza di classe. Ciao, sta cretino. Ciao, e tu cretino. Ne pagherai le conseguenze. Ma vai pezzo a fare di il culo. Merda. Ma sei... Dopodiché, se vuoi, sei un poveraccio. No, no, sei un poveraccio. Sei un poveraccio e basta. No, ma non mi piacciono i trans. E comunque, se mi piacessero, non avrei problemi. Che fai? Sei contro contro i trans, contro gli omosessuali, no, sei pure omofobo. Trans, sei pure omofobo. Io sono anarchico vero, non come te che sei un anarchico capitalista. Ciao, ciao, ciao. Merda. Sì, ciao, coglione, ciao, coglione, ciao, ciao, coglione, ciao, ciao, coglione. Che fai attacchi perché non sai che giù, giù, giù, giù, giù, scendi, scendi, scendi. C'è un clima molto confindustriale in questa radio, bisogna dire, caro Parenzo. C'è un clima, pesante. Molto confindustriale come in questa un radio. Un clima veramente pesante. Molto confindustriale. Hai Io però direi di bissare pesante. Con una cosa. Te lo ricordi, Leo, subito in batteria? Voglio subito in batteria. Te lo ricordi, uno, Leo? 1-2-1-2. Te lo ricordi, Leo? 1-2-1-2. Leo, il fascista amico di Polegato. Leo, il fascista. Sì, come sta vivendo questo periodo, secondo te? Ma chi come se sta ne frega? Ma chiamiamolo. Ma chi se ne frega il popolo, chiamiamo il popolo. Vediamo che cosa ha intenzione di fare il popolo. Il popolo è un involuto, no il popolo. In batteria, chiamiamo anche Leo, dai, uno, un 1-2, un uppercut, come si vai. Pronto? Leo? Sì. Sono Cruciani, come andiamo? Andiamo. Come sta andando la ripresa vista da, vista siamo da Leo? 50%. Di che sono cosa? Già uno fortunato perché ci chiedono non fare neanche quello, 50-60%. Ma come la vedi tu questa situazione, il governo, eccetera, vista da Leo il fascista? Com'è la situazione? Il fascista dice che praticamente abbiamo tutti arrestati. Chi andrebbe arrestato? Conte in primis, perché è quello che ha fatto tutto meno quello di aiutare il suo paese. Cioè tu sei fascista, italiano. Tu sei fascista e dici che Conte va arrestato. Tu ti dichiari fascista, sì. Perché sei fascista, sì. Sei sì. Ammiratore di Mussolini, diciamola tutta. Molto, sì. Molto, vai a Predappio, fai sì. Il braccio teso e dici che il Duce ma è stato non un... Ma non è questione del braccio teso, perché il braccio teso purtroppo posso anche farlo per onore ai caduti, quindi voglio ma dire... Ma comunque non è sei fascista, che... sei a fascista. A Predappio sì. Ci sono dei buoni gabinetti o sbaglio? Ci sono dei... Mi hanno detto che ci sono dei gabinetti no, eccezionali. Doccia, ci sono dei grandi gabinetti e degli ottimi gabinetti. Tu ti fai la doccia appena non andato a cagare, pisciare ci fai la doccia dentro. Ottimi. Però scusami, Leo, dopo aver arrestato Conte, cosa vuoi fare? Diciamo, una marcia su Roma? Ma cosa... No, ma allora io dico sempre a tutti: tutti mi chiamano, andiamo a Roma, facciamo spacchiare. Ma tutti però chi? Sai qual è? Ma chi che lo chiama? Sai qual è il problema? Fai stare zitta a quella che mi dà fastidio. Qual è il problema? Ma chi è che ti chiama? Ma nessuno ti chiama. Nessuno ti chiama. La Neuro, la Neuro Deliri, la Neuro Deliri. La marcia su Roma. Marcia. No, dimmi allora, ti chiamano? Non farmi interrompere. Ti chiamano allora? La Neuro Deliri ti chiama. Ti chiamano, facciamo no, la marcia. No, ma io dico ma sempre, chi ci mettiamo lì poi? Chi ma prima chi mettiamo lì? Facciamo chi? Come ha fatto l'America la Francia, prima sono Mussein e Gheddafi adesso. Ma prima devi ma lascia perdere, prima ma prima devi intercettare una persona che onesta, ok? E poi eventualmente, capito? Chi ci vorrebbe là? Lui risolverebbe tutto. No, io vorrei l'altro punto. L'unico che mi avvicina è la grande Giorgia Meloni. Ah, ecco bene, sì, ecco bene. Io ci metto la grande Giorgia Meloni, che è l'unica che dice le cose sensate e ti risponde sempre a tono. Dunque, una dittatura della Meloni, una dittatura della Meloni. Ma quale dittatura? Ma tu hai detto, non è una dittatura, ma quale dittatura? No, ma tu sei fascista. Di sinistra. Questa è dittatura. E qui il problema si complica. Tu, voglio dire, ma sei fascista o no? Scusa, Leo, io non ho capito. Sì, sono fascista, te lo devo mettere per scritto. Sì, sono e che fascista. Cosa allora, vorresti che ci fosse? Se uno a comandare col pugno di ferro. No, no, ci vogliono le regole che vanno rispettate. Di regole. Di qualcosa. Ognuno fa per cazzo una voglia. Arrivano i clandestini, rubano, ammazzano, fanno, dicono, delinquenti, fanno per cazzo. Hanno tirato fuori 350-400 castolani. Capito? Di guardi lobbisti. Ma la pena di morte. Ma la pena di morte ci vuole, secondo te? Bisogna la pena di morte in alcuni casi ci vorrebbe, sì. Ci vorrebbe la pena di morte. Non per le cose ovviamente, ma su cose gravissime. Io ammazzo un bambino, stupro un bambino, l'ammazza, io lo metto al muro, non lo processo, non spiego neanche soldi. Sua eccellenza, signor Mussolini, sua eccellenza. Lo chiamavano sua eccellenza. Sì, perché lui è sua eccellenza, perché lui ha fatto grande l'Italia. Capito, okay. Se l'è autodato. Lui ha fatto il famoso Vendegno, se l'è autodato quel titolo. Chi è arrivato dopo di noi? Si è autonominato sua eccellenza. Quello ridicolo. Quel ridicolo lui per quel ridicolo personaggio. E questo coglione che sta parlando non dice, detto dai suoi ebrei amici, che c'è il ridicolo personaggio. Ebrei. Va bene, che ci va adesso a leggere la storia quando ha scoperto cosa succede in Germania. Questo è il ridicolo personaggio. coglione. Un piccolo personaggio si è autodato il titolo di Sua Eccellenza. Era talmente patetico e con un senso di inferiorità innato che si è autodato. Tu sei una cacca umana. Grazie. Lei per chi vota? Grazie. Lei per chi vota ha detto? Perché ha detto? La Costituzione italiana dice che ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero anche a me. Ma non di incitare al fascismo. Tu stai muto, coglione. Lei conferma che voterebbe per Giorgia Meloni, giusto? Sicuramente sì. Perfetto, perfetto. Non c'è altro da dire. Giorgia Meloni sarebbe d'accordo che io mi dica. Sarà felice di sapere che ha un supporter di questo tipo. Sarà felice. Quindi qual è il problema? Qual è il problema? Ma non lo so, se è Mussolini. Il problema non è sicuramente un suo problema. Il popolo italiano rivende che giustizia, regole. Okay. No, guardi, mio problema non è. Ma hai detto non che vanno presi a calci nel culo quelli che stanno al governo? Andrebbero presi e impiccati? Non so che hai detto. No, processati. Ho detto che andrebbero tutti arrestati. E quello arrestati, va bene, arrestiamoli tutti. Andrebbero arrestati perché hanno distrutto il popolo italiano. E chi ci vede? Chi è questo cazzo di Covid-19 qua? Hanno fatto un disastro. Hanno piegato l'economia italiana. Non ho capito. Scusami, Leo il fascista. Scusami, un attimo. Tu faresti occupare il Parlamento da qualcuno? L'occupazione del Parlamento? Occupiamo. E chi lo deve occupare? Il popolo? Chi lo il popolo è sovrano, l'articolo 1, il popolo è sovrano, dunque... andiamo a votare, giovinezza. Primavera di bellezza, benito Mussolini, sarà contenta Giorgia Meloni dopo questa sua canzoncina, sarà molto felice. Lei per prima, dopo di lei. Sono d'accordo con me perché lei non è così estremista. Ma che bella figura che fa fare al Partito Fratelli d'Italia, ma che bella figura. Ma coglione, ma chi cazzo sei, coglione? L'abbiamo tanata, l'abbiamo tanata, ecco il classico, ecco uno dei tanti elettori, ecco uno dei tanti, sempre dopo di lei, sempre dopo di lei, sempre dopo di lei, sempre dopo di lei, sempre un minuto dopo di lei, per avere un minuto di lei. Io ci scomparirò dopo di lei, dopo averle pisciato sulla tomba, ovviamente. Un minuto dopo di lei, non si preoccupi, un minuto dopo se vuole. La zanzara. Me l'ha detto lo psichiatra, smettila con la zanzara. Me l'ha detto lo psichiatra, smettila con la zanzara. Me l'ha detto lo psichiatra, smettila con la zanzara. La zanzara. Controllo sanitario. Stanno sanificando il negozio. Oh sporcaccione, finita la pacchia, eh? Urshani, finita la pacchia. Tutto il mondo contro di voi. Tutto il mondo è ribellato. Ma chi? America, Londra, Spagna, sì, anche a Roma adesso. Qui in Francia, ad esempio, stamattina parlavano di voi, giornalisti di merda, quelli che seminano odio. Sì. Cruciani, Sallusti, Del Debbio e la compagnia bella. Ma dove in Francia? Chi ne parlava? Voi che seminate odio nelle vostre trasmissioni, caro mio. Fra poco cambierà qualcosa. Ma cosa cambierà? Lo so che questo messaggio non viene diffuso. Eccolo qua invece. Però lo so anche che li ascolti. Vaffanculo, teste di cazzo che non sei altro. Oh, eccolo qui, il democratico. No, il democratico. Ragazzi, io direi a questo punto di chiamare un signore. Che, anzi no, aspettiamo un attimo con calma, con tranquillità, andiamo con gli ascoltatori che è meglio, perché vorrei chiamare un signore che è praticamente uno che vuole togliere la statua di Indro Montanelli a Milano. È una piccola cosa, non interessa al grande pubblico, non si tratta di squirting, non si tratta di peli di figa, certo interessa. Però è un simbolo, una cosa di questo tipo, uno che ha intenzione di togliere la statua di Montanelli, anche l'intitolazione mentale, l'intitolazione di un parco a Indro Montanelli, grande protagonista della cultura italiana, pazzo, uno può semplicemente perché negli anni 30, vi ricordate, è stato con una minore quando era soldato, eccetera, eccetera. amico mio, c'è da discuterne, c'è da discutere della come dire, dell'interesse che uno può avere per questa vicenda qua. C'è uno si mobilita e qualcuno al comune gli dà pure ragione qui a Milano. È qualcuno pirla, lo segue pure. È un pirla e basta. Ivan da Bologna, dai, Ivan da Bologna, dimmi. Ciao. Dimmi. Ascolta, io non sono, premetto, non sono. No, non sento però, Ivan, non sento, amico mio, non sento, si sento poco. Mettiti meglio col telefono, non so dove sei, se hai qualche ammenicolo attaccato. Via, dimmi. Via, chiudere. È tutto a posto? Sì, speriamo, vai, forza. No, allora, premetto, non sono un fascista, però dire che il fascismo abbia fatto solo cose negative, secondo me, è una stronzata. E spiego perché. Perché sostanzialmente ci sono tante architetture, tanti monumenti, tante. Ma quello che c'entra, ma quello nessuno vuole abbatterle, infatti. Cioè, non è che stiamo qui a prendere a picconate le cose che. Ma tutte le dittature, avendo una certa facilità a mobilitare le persone, hanno anche gli artisti hanno creato delle opere che sono rimaste, non c'è dubbio, ma quello non c'entra un cazzo. Però, cioè, non è che da quello uno può dire, però ha fatto cose positive, non c'entra una sega, quello è un altro discorso che ha a che fare col fatto che. È stato in quel periodo lì. Ho capito, ma che vuol dire? Ma non vuol dire nulla. Anche ci sono rimaste delle cose del sono rimaste delle cose del nazismo in piedi, ma perché sono rimaste che architetture fanno poche, per fortuna, cavolo di buono, ma non è vero adesso nel dopo, cioè, voglio dire, cioè, ma ho capito cosa vuol dire, cioè, nessuno pensa di fatte da zero, ho capito, ma lì c'era una ma lì c'era l'esaltazione dell'opera pubblica, nessuno pensa di bombardare l'EUR o Latina, nessuno vuole bombardare né l'EUR né Latina, sono cose che rimangono, punto e basta, dai, non c'era una grande propaganda. Dunque c'era la necessità di far vedere quello che fa il regime, ma succede dappertutto questa roba qua, ovunque, in qualsiasi posto dove c'è uno che comanda, vai in Corea del Nord, che certo non vuol dire, no, non è fascista, cioè è fascista, ma insomma è comunista come colore politico, e tu vai a vedere che è pieno di grandissime opere, enormi opere pubbliche, strade perfette, poi bisogna vedere autostrade vuote, sì, strade, che ne so, c'è scuole, poi non so come sono tenute, però insomma ci sono grandi opere pubbliche, monumenti, cose pazzesche. Ha fatto dei monumenti e grazie a cazzo che ha fatto dei monumenti, i dittatori quello fanno, dai, serviva per il regime, dai, scusa. Dario da Palermo, forza Dario. Crociani, guarda, ti chiamo soltanto per dirti un'obvietà, dimmi Dario, dimmi. Quello che è successo a George Floyd poteva accadere a chiunque, dico, anche a me o a te. Bah, non insomma, è che il fatto che non credo, amico mio, no, questo non credo, non poteva accadere né a me né è a te. È pieno di casi di afroamerici che nelle mani della polizia, se no non si spiegherebbe il tipo di rivolta, il tipo di protesta. Non volevo dire questo, il fatto era soltanto che non è che siccome è accaduto a Minneapolis a noi non ci guarda. No, ma è uno dei tanti ma io non ho detto questo, è accaduto a Cucchi. Ma non c'entra un cazzo, un'altra storia, non dire puttanate, dai, di una su. Persona che era nelle mani dello Stato, ma è diverso, quello c'erano le telecamere ed è morto capito, lì quasi però. In diretta, quell'altro c'è tutta una storia, dai, su, dai, ma dimmi. Il problema non è tanto che bisogna polemizzare su per chi si inginocchia in Parlamento, ma no, o ma quella è una polemica che ci sta, la gente si è inginocchiata in Parlamento e dunque ci sono persone che non hanno gradito, hanno fatto polemica, siamo in democrazia, ma per fortuna, il problema no? È che si fa polemica su questo e non si solidarizza invece con quell'afroamericano, ma chi è che non si solidarizza? È chiaro che se una persona è morta, un poliziotto è colpevole, uno è a di quello che è morto, che cazzo ma vuol perché dire? Si è scatenata questa emotività, questa onda emotiva nel mondo, che si inginocchia in Parlamento e non ci in Italia c'è una discussione sul fatto che uno si inginocchi in Parlamento, ci può, è legittima la discussione, Crociani, veramente dal profondo del cuore, homo sum umani nil a me alieno un punto, veramente bellissimo, siamo tutti esseri umani, ma cosa siamo, ma chi lo dice, ma che banalità umani. È ma grazie al cazzo, ma grazie al cazzo, ma grazie al cazzo, chi ha detto che quello non deve pagare, chi ha detto anche fosse stato il peggiore dei criminali, a meno che non stesse bravo, per Dario commettere Palermo, un reato, molto bene. Che cosa ha detto, una cazzata, anche una banalità corte, colossale, che ha detto una banalità colossale, siete là ad applaudire, sono tutti esseri umani, questo, grazie alla minchia che sono tutti esseri umani, ma chi dice allora il contrario? Perché non ne parliamo di cosa? Si parla effettivamente per una cosa che è successa in America, ma a me sembra una cosa assurda, il discorso è un altro, sì, per una è la passione che è stata commessa per un atto delinquenziale, certo, che è stato commesso in America. Ma la passione, quando guarda che non è il punto, non è questo, il punto è un altro, perché la signora Boldrini l'altro giorno alla Camera non ha detto solamente ci inginocchiamo per quello che è successo in America, certo, ha detto esistono casi del genere, certo, anche abusi anche in Italia, il razzismo anche, ma di che cosa stiamo parlando? Stai paragonando la polizia americana alla polizia italiana, quello che succede in alcuni stati, e allora che cazzo dici? Chiunque, non è vero, falso, super falso. Mauro da Massa, certo, è falso. Mauro da Massa. Allora, Dimmi. Una delle ragioni principali della frequenza e dell'alta mortalità delle epidemie medievali è legata all'organizzazione politica dell'epoca, di città-stato. Ma dove sei? A un convegno del professor Barbero? Dove sei? Ma dove sei? Dove pensi di essere capitato? Beh, un convegno di filosofia? Però. Un grandissimo. Allora. Barbero. Grandissimo, per carità. Ad esempio, si potrebbe sostituire la Zanzara con il professor Barbero. Assolutamente, ma se Confindustria lo fa, sarei contento. Basta che mi danno un sacco di soldi, sono contento. Basta una bella liquidazione, me ne vado a fare il culo. Mauro, dimmi. Sì, quello anch'io. Questa tendenza alla segregazione di pool genetici simili, tra l'altro, spiega con estrema semplicità e chiarezza, e senza che i dati contrastino, uno, l'alta mortalità negli ospedali e con caratteristiche diverse nelle case di riposo. Tu ci stai dicendo che cosa? Che la segregazione, cioè dire il fatto di essere in posti molto dove la popolazione è concentrata, che cazzo stai dicendo? Bravissimo. Poi, mantenimento del famoso plateau nelle zone rosse, più in generale l'aumento di morti nelle zone di segregazione. Zona di segregazione, non è che uno è segregato. Tu dici, non stai dicendo una cosa nuova, stai dicendo più gente si avvicina, più possibilità c'è di infettarsi. Che minchia di ragionamento è? Viva il Barbero, contagio, dai, su a questo punto, dai, entri il Barbero in campo invece di Mauro da Massa da Carrara. Il contagio scoppiato in differita nelle regioni meno popolose, allora? Che essendoci subito chiuse a riccio, non sono state raggiunte dai fuggitivi, che in altre regioni invece hanno mitigato il ceppo originale. E allora? Quattro, l'alta mortalità in Liguria. Allora? Qui c'è chiaramente anche una barriera naturale legata al territorio, ma il crollo del ponte non ha aiutato, questo è sicuro. In che senso, scusa? Non ha l'alta mortalità in Sud America. Non ha aiutato. È stato un intero continente che hanno tentato di segregare le politiche. Ma da dove è stato fuori? Io ho perso un attimo il filo, chiedo scusa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento La Zanzara. Complimenti agli amici della Zanzara. Poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Però c'è un manuale anticellulite su come non avere la cellulite, con quasi 7000 copie vendute. La stupisce questa, non dica qualche cattiveria perché io non ce l'ho la cellulite, quindi andiamo avanti. Intanto io non lo so se ha la cellulite finché non vedo. Anch'io li... Stanno ridendo a tutto spiano, guardi, ridono a tutto spiano. Tiri sulle donne, vediamo. Ma dai, dai, non dica stupidaggine, andiamo avanti, dai. Che genio! La solita commedia. Che geni abbiamo tra Corona e Bianca Berlinguer. Non dica stupidaggini, bellissimo, un format geniale. Allora, bellissimo, era una grande novità, dai. Ma quale novità? Il novità sarebbe il bello e la bestia, bellissimo. Ma è finito, la bestia, ormai anni è sempre bellissimo. La stessa cosa. Corona però spara zero contro il poliziotto di Floyd, senti. Quel bastardo criminale, quell'escremento che ha tenuto un ginocchio sul collo di un poveraccio, e che lui chiedeva pietà, chiedeva sto morendo, e lui impassibile, e le altre 3-4 merde che erano attorno a lui, ma me lo lasciano, le parolacce le dico perché le sento. Quel bastardo lì, quel figlio di Buonarro, me lo lasci in mezz'ora qui nella tana, a me. Vediamo se mi mette il ginocchio. Ma non è che dobbiamo fare occhio per occhio, dente per dente. Quella merda lì. Va bene. Quella merda lì. Sta parlando del poliziotto con chi. Va bene, lo so che... Mi lasci dire l'epiteto che si merita quella merda lì. Già l'ha detto, basta. E anche quelli che erano con lui. Senta. Allora l'Aquila ha un valore che è stata uccisa, ma ha ancora più valore un povero diavolo di colore che viene cinicamente... E non è paragonabile la cosa, non è paragonabile. Me lo lascino qui mezz'ora, quella merda lì, qui nella tana, mezz'oretta. Basta, vediamo chi esce vivo. Ma Però posso dirti, caro Corona, ma cosa che vuol dire metterti di fronte a quel poliziotto, non lo so, io non so chi esce vivo, tra Corona e quel poliziotto. Però è sì, tosto, però sai, quel poliziotto era alto, quello uccide gli animali con le mani, lui proprio con le mani, con le mani. Enzo, provincia di Taranto, vai. Dobbiamo chiamare quello, dei sentinelli là di Milano, quello che vuole togliere la statua di Mussolini, sì, di Montanelli dalla Lapsus. È un matto, dai, ma un poveretto, dai, pazzo. Enzo, dai, intanto buonasera, mi sentite? Enzo, sì, ti sentiamo, sì, dai. Grazie, forse. Intanto buonasera, non faccio non ce ne frega un cazzo del buonasera, bravo, non ce ne frega niente. No, volevo, io intervengo perché ho sentito quel signore, diciamo, tra virgolette, che ti minacciava, diceva parole un po' fuori sé. Mi chiedevo, e intervengo per questo, ma questi che Italia vogliono? Qual è non il so loro a chi ti riferisci, amico mio, per quello secondo me, secondo me fa finta, cioè uno di quelli che minacciano, sì, fa finta, però, minacciano per modo di dire, poi non si muoverebbero da Roma per arrivare a Milano nemmeno morti. Allargando il discorso, ci metto anche Parenzo, che non è laureato, ricordo a tutti, che c'entra? Perché lui che Italia vuole? Lui dice che non è comunista e poi professa qualcosa che non appartiene a noi. No, momento, non sono professa qualcosa, per carità. Però no, si calmi, respiri. Io mi sono sempre definito un socialista liberale. No, vabbè, adesso ragazzi, non diciamo chi se ne frega di quello che ti vada a vedere cosa vuoi Enzo, dire. Non ho capito cosa vuoi, Enzo, cosa vuoi? No, niente, ero solidale con te, questo volevo dire. Ciao, è l'Italia che vogliono questi, non è la uno mia. Spostato. Questi chi? È uno spostato. Uno spostato che è solidale con te. No, ma anche lui è uno spostato. Va bene. Allora c'è un movimento che si chiama i Sentinelli di Milano. Io pensavo che i Sentinelli fossero questi cattolici che erano le Sentinelle, no? Però esistono le Sentinelle, sì, quelle sì. Probabilmente è una presa per il culo delle Sentinelle, mi dicono, può darsi. I Sentinelli di Milano, sì, ma non è una cosa geniale, cioè non è una cosa. Comunque, i Sentinelli di Milano che cosa fanno? Vogliono cancellare Montanelli, trovare, portare via la statua, togliere l'intitolazione del parco Montanelli, perché Montanelli secondo loro era un razzista, uno che ha sposato, si è fatto una ragazzina quando, durante la guerra, cose che sappiamo ormai, eccetera. Chiamiamo questo tizio, vai. Pronto. Paladini? Sì. Oh, buonasera, mi chiamo Cruciani, salve. Salve. Volevo sapere una cosa, ma veramente voi volete togliere la statua di Montanelli? Siete tra i promotori di quell'iniziativa per togliere la statua di Montanelli? Noi siamo fra i promotori perché a Milano si apre una discussione per confermare o meno l'intitolazione del parco a Montanelli. Sì, sì, intitolazione del parco, dunque anche la statua? Ma perché una statua dovrebbe essere tolta? Perché un parco non dovrebbe più avere il nome di Montanelli? Cioè la cosa che la cosa, scusami Luca, che in un momento nel quale il tema del razzismo, il tema della che posizioni le persone prendevano nei confronti delle persone di colore è un tema che si interessa. Montanelli ha detto le cose che ha detto nel 1970 e le ha ribadite nel 2000 in un intervento sul Corriere della Sera. Sì, ma quello riguardava una questione, cioè non si può definire Montanelli un razzista. Oppure tu definisci Montanelli un razzista? Io definisco Montanelli una persona che non ha sentito il bisogno di pentirsi del fatto di rivendicare il fatto che stava con una bambina di 12 anni, evidentemente abusandola nel momento in cui una bambina di 12 anni non ha la possibilità di... Capito, ma erano gli anni 30. E ripeto, nel 2000 il signor Montanelli, quindi con una società che progrediva, non ha sentito neanche l'esigenza di dire... Ma forse 70 anni fa ho sbagliato a fare Ma questo è un processo alle intenzioni di Montanelli, va benissimo, uno può avere tutto il giudizio. No, ma uno può avere tutto il giudizio. Nel 2000 non ha assolutamente Ma io sono uno può su Montanelli la può pensare in mille modi, anche pensare che sia un razzista, anche pensare che sia un criminale, non è questo il punto. La cosa che mi colpisce è che ci sia qualcuno che pensi, perché adesso c'è stata questa vicenda di Floyd, eccetera, di addirittura togliere l'intitolazione di un parco, addirittura a rimuovere la statua di uno che è stato comunque un simbolo della cultura italiana, non c'è niente una da fare perché è così, cioè non è che è Mussolini, è una statua Mussolini non ci potrebbe essere. Montanelli, con questo discorso allora avvaliamo l'ipotesi che ciascuno ovviamente ha fatto anche delle cose buone, non è il tema di quale ma la figura di Montanelli Montanelli non è che è, come dire, centrata su quello che ha fatto in Africa negli anni 30, tutt'altro, cioè Montanelli per me, quello che ha fatto negli anni 30 in Africa è una cosa che non giustifica il fatto che una città come Milano gli intitoli un parco. Evidentemente per lei ha più valore le opere e gli scritti di Montanelli, per me ha più valore quello che Montanelli ha fatto e non ha mai riconosciuto negli anni 30. Scusami, parla di lei prende un episodio della vita di una persona che per l'Italia... Ma parliamo di una bambina di 12 anni violentata per anni, mi parlate di un episodio? Ma gli anni 30, erano gli anni 30, ne succedevano di tutti i colori. Ma non che li vuol dire libera tutti, è un altro discorso. La vita di Montanelli si è svolta in maniera diversa poi da quell'episodio lì. Ma ovviamente le vite di ciascuno di noi hanno mille sfaccettature. Però, scusami, Montanelli, ognuno di noi decide in base alla sua sensibilità cosa della vita di ciascuno di noi ha più valore. Scusami, però, ma nessuno si ricorda peraltro di quell'episodio. Cioè, quell'episodio non è caratterizzante della vita di Indro Montanelli. Ma è un episodio drammatico, ma non è caratterizzante neanche per l'opinione pubblica, per quello che ha rappresentato. Quell'episodio fu una porcheria assoluta, sicuramente fu una porcheria assoluta, di cui anche lui si è pentito, peraltro, perché ne parlò negli anni. No, però io voglio dire, scusami Paladini, però il problema è solo uno qua. Cioè, tu veramente se qualcuno abbattesse con la statua saresti contento? Adesso non giriamo intorno alla discussione. No, ho capito, però non mettere la cosa alla discussione, perché non è questione di discussione. Fosse per voi, l'abbiamo scritto. Rimuovere la statua non abbia più il nome di Indro Montanelli, assolutamente. E dunque anche la statua, immagino, via anche la statua, cioè, non a picconate di notte, d'accordo, ma rimossa dalla forza pubblica o dai vigili per indegnità, diciamo, no? Quello potrebbe essere la cosa, perché per voi Montanelli è indegno di rappresentare Montanelli rappresenta un simbolo negativo a cui non può essere associato un luogo pubblico importante della città di Milano. È indegno di rappresentare la città di Milano. Allora anche Caravaggio, bisogna abolire i quadri del Caravaggio. Bruciamo i quadri del Caravaggio. No, Caravaggio. Ma che c'è? No, voglio dire, allora, ma no, se tu vai a vedere nella storia delle persone, ci sono fiori artisti, dei grandi artisti e degli intellettuali. No, però scusa. Ma ci sono fiori artisti che erano dei porci maledetti che hanno fatto le peggiori cose. Allora Roman Polanskin, ad esempio. Prendiamo un caso. C'è un parco Milano chiamato Roman Polanski. La cosa che mi fa impazzire è dopo la vicenda di Floyd, che cazzo c'entra dopo questa vicenda qua? Cioè, uno potrebbe dirlo sempre in teoria, sì, no? Vale, cioè, a prescindere. Beh, esatto, infatti, non nasce oggi la polemica. Sì, sul per carità, Montanelli. Però dai, ragazzi, su, ma che non nasce oggi la polemica. Ma Montanelli è un grande protagonista della cultura italiana. Punto e basta, non rompete i coglioni su sta cosa. Dai, su, è un grande protagonista se della cultura. Se tu mi chiedi un'intervista e mi dici di non rompere i coglioni. Oh, hai chiamato tu. No, calma, ho detto non rompete i coglioni. Non rompete i coglioni, è un'espressione. Calma. L'espressione non rompete i coglioni è un'espressione per dire non rompete. Tu mi dici di non rompere i coglioni. Te lo sto spiegando il significato di non rompere i coglioni. Nel termine a casa mia, a casa nostra, quando uno dice non rompere i coglioni, non è vaffanculo. Non rompere i coglioni significa che non scocciate troppo su questa cosa di Montanelli, perché è una cosa. Ma non lo decidi tu se io posso o non ma posso. Ma certo, per me invece. Io rappresento la sensibilità di un pezzo della città. Ma che quale pezzo? Momento, ma non c'è manco. Ma non c'è manco una persona a Milano che pensa che Montanelli. Ma non c'è neanche minchia, ma conosci bene Milano proprio. Ma ci abito la mente. Conosci bene Milano. Più di te sicuro. Vabbè, Paladini, t'abbraccio, vai. Saluti. Ciao. Incredibile, ragazzi. Questo non rompere i coglioni, non mi puoi dire non rompere i coglioni, non rompere i coglioni. Io lo ridico, non rompete i coglioni con queste stronzate. Occupatevi di cose più interessanti, non di statue, di giardini, eccetera. Occupatevi di altre cose, non di giardini e di statue. Non è un criminale quello. Ha fatto il giornalista per 50 anni, nessuno l'ha incriminato di nulla, non rompete il cazzo, no? Adolfo da Massa, vai Adolfo, dimmi. Ciao grande. Dimmi. Sempre grandi complimenti. Scusi, lei si chiama Adolfo, ho capito Adolfo, bene? Sì, Adolfo. Adolfo. Posso chiederle se è nato prima o dopo la seconda guerra? Prima o dopo gli anni 30? Sicuramente dopo. Come lei ha qualche parente in famiglia che si chiama così, quindi è un omaggio, immagino, a qualche suo familiare. Ma non è che tutti quelli che si chiamano Adolfo adesso era per Aspetta, Hitler. Fammi fare questa pre-intervista. Non lo so, sai, il nome Adolfo ricorda. Il nome Adolfo, sa com'è? Quando lo sento io in genere. genere balzo sulla sedia. Sì. In particolare per le persone che hanno dato questo, che hanno perché ricevuto questo nome dopo gli un anni 30. Beh, sa il nome Adolfo. Adolfo. Le posso assicurare che io per ora ho 3 figli, tra poco 4. Nessuno dei miei figli, le posso assicurare, si chiama e si chiamerà mai. Non credo che sia questo il problema nel mondo. No. Ma nemmeno Eva, nemmeno la prossima Adolfo. Bambina non si chiamerà Eva. Deve essere discriminato. Se tu dovessi avere dei figli maschi, Cruciale, chiameresti mai Benito? Ma non perché no, Benito no, perché non mi piace, è un nome antico, è un nome antico che non mi piace. Benito. Anche Adolfo è un nome di antichità. Ma non daresti il nome Benito tu? Ma no, ma Benito no, ma Benito no, perché non mi piace Benito, non mi piace Benito. Non mi piace, però non è che Benito per forza ricorda Mussolini. No, per carità, non voglio dire niente, per carità. Posso dirti che da parere mio, a casa mia, nessuno si chiama così? No, quello sicuro. Adolfo, il nome perché te l'hanno messo Adolfo a te? Ma non lo so, roba di parentela. Ma c'era qualche cosa che riguardava no Adolfo? Sì, uno zio molto caro alla mia famiglia. Magari era nazista, magari era simpatizzante di Adolfo. Negli anni 30 l'adorato zio. Cosa faceva negli anni 30 l'adorato zio? Perché lo chiedo sempre. Vabbè, Adolfo, che vuoi? No, chiamavo per un discorso, tra l'altro mi rifaccio anche al discorso di Montanelli, sulla libertà di stampa. Fermo. Ma sento Mughini dire che chi non legge i giornali, insomma, nel paese dove la libertà di stampa è il 44esimo posto nel mondo. Ma è già annoiato, amico mio, ma è una noia mortale, era meglio Adolfo. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Quel bastardo criminale, quell'escremento che ha tenuto un ginocchio sul collo di un poveraccio.